dire che qui son io. Porto Sibilla, che tutto sai, della mia stella mi parlerai. Fedele il flutto m'aspetta, se molle di pianto la donna diletta, dicendomi addio, tradì l'amor mio, tradì l'amor mio. E l'alma in tempesta, i salti soffranger dell'onda funesta, l'averno ed il cielo ira di sfidar, l'averno ed il cielo ira. Esplora divino gli avanti, non faccio dei fulmini la rabbia dei venti, la morte, l'amore, sbigarmi dal mare. Ando, ando, ando, la morte, l'amore, sbigarmi dal mare. Che magico in grembo, se scosso mi sveglia i fischi del nembo, ripeto fra tuoni, le dolci canzoni, le dolci canzoni, le canzoni del tetto natio, che i baci ricordan dell'ultimo addio, e tutte riaccendo le forze del cor, e tutte riaccendo le forze del cor. Su dunque risuoni la tua profezia di ciò che può sorgere dal fatto che sia nell'anima e lo spero dentro il cercare. Non, non, non.